Io faccio parte di Backbo APS. Backbo è l'associazione che ha organizzato, che sta organizzando Cambiamenti Festival. Da statuto e anche prima di costituirci come associazione vera e propria, l'intento di Backbo è sempre stato quello di, insomma, sensibilizzare sui temi legati all'economia circolare, in contrapposizione a un'economia lineare, che è quella che abbiamo oggi, insomma, del consumismo spinto, no? Quindi come si può modificare questo mindset che abbiamo tutti. E cosa accadrà il 7-8 ottobre? A Dumbo? A Dumbo accadrà Cambiamenti Festival. Cambiamenti è un festival che è nato come pensiero molto tempo fa, in realtà poi il Covid ci ha bloccato, e nasce dal fatto che nel tempo abbiamo collaborato con tantissime realtà del territorio, aziende e associazioni, cooperative, e ci siamo resi conto che molto spesso quello che manca a Bologna, ma parlo di Bologna perché è il nostro territorio, è il far rete. Molto spesso le persone non conoscono delle realtà fantastiche che già oggi si stanno impegnando sul territorio per fare la differenza per quanto riguarda un cambio di prospettiva, e quindi appunto anche a livello di economia circolare. E ci siamo detti: facciamo un festival che racchiuda tutte queste realtà che chiamiamo delle realtà virtuose. Quindi cosa sarà in breve Cambiamenti? Cambiamenti sarà ci sarà la possibilità di conoscere queste realtà sia a livello di stand, perché ci sarà un percorso guidato attraverso differenti categorie, che sono poi le categorie del nostro quotidiano, no? Quindi il turismo, il territorio, la finanza, il cibo, tutti i problemi, tra virgolette, che della nostra quotidianità, e queste realtà ci mostreranno come possiamo trasformare questi problemi in delle soluzioni. Quindi ci sono già delle persone che si stanno attivamente impegnando in questo senso, e quindi le possiamo conoscere direttamente al festival. Oltre questo ci saranno dei talk, delle tavole rotonde fatte proprio per far chiacchierare tra loro diverse aziende, cooperative, associazioni su dei temi che sono quelli poi legati all'economia circolare sul territorio, e ci saranno tantissimi laboratori in realtà per bambini, adulti, proprio per mettere anche le mani in pasta sulle soluzioni. Proprio sulle soluzioni volevo farti una domanda, perché magari sono un numero crescente le persone che si interrogano anche sul proprio impatto, no? sul pianeta, nei loro modelli di consumo, ma spesso, come dire, restando alla teoria, fanno anche fatica a vedere praticamente, concretamente le soluzioni. A Cambiamenti questo in realtà, appunto, anche attraverso i laboratori, come dicevi tu, verrà mostrato. Esatto, la filosofia proprio del festival è far vedere che le nostre azioni possono fare la differenza, soprattutto quando si guarda il territorio. Perché molto spesso cosa succede? Che pensiamo agli eventi catastrofici che ci hanno investito in questi ultimi mesi e pensiamo che non c'è niente da fare, tutto è più grande di noi. Diciamo, molto spesso viene fuori poi quella parola chiave che sta girando su tutti i media, che è l'ecoansia, no? Perché? Perché ci si sente impotenti rispetto a un qualcosa molto più grande. In realtà quello che vogliamo far vedere è che l'unione delle singole azioni fa la differenza. Quindi cito anche un libro che verrà presentato a Cambiamenti, che è il libro di Maurizio Casiraghi, che si chiama Sempre più soli, e lui dice: per salvarci ci possiamo salvare soltanto insieme, cooperando. Questa è la nostra filosofia. L'Emilia Romagna è stata la prima regione nel 2015 a dotarsi di una legge sull'economia circolare, quindi il nostro territorio, come dire, ha una sensibilità in più rispetto ad altri? Non ho esperienza di altre città, devo dire, perché da un po' di anni vivo a Bologna, però sì, di fatto è diciamo, quantomeno c'è molta più attenzione. Anche il fatto che adesso Bologna sia tra le 100 città candidate a diventare carbon neutral entro il 2030, no? È un impegno molto importante. Il fatto che si parli di questi temi, secondo me, è incoraggiante, perché vuol dire che il tema c'è, non si stanno chiudendo gli occhi, no? Quindi poi come lo si raggiunga, io ripeto, secondo me lo si raggiunge solo tutti insieme, aiutandoci e facendo cassa di risonanza, però insomma l'idea che se ne parli è molto importante. Diamo a chi ci ascolta anche dei riferimenti dove trovare il programma completo, appunto, del 7-8 ottobre di Cambiamenti Festival. Sicuramente si può trovare sul sito di Cambiamenti, che è cambiamenti.backbo.it. Lì si trovano tutte le informazioni aggiornate. Ovviamente sui nostri social, in particolare sul canale Instagram di Cambiamenti, è aggiornato quotidianamente, quindi si possono vedere anche nel dettaglio le varie descrizioni di quello che verrà fatto. Da poco abbiamo anche creato una raccolta eventi su Eventbrite, dove su alcuni eventi che richiedono una prenotazione è possibile prenotarsi tutto gratuitamente. Al momento è attiva anche una campagna di crowdfunding mio su Idea Ginger, che ha già oltrepassato il primo obiettivo, che era quello che ci avevamo dati solo per la realizzazione del festival. Stiamo continuando a raccogliere fondi perché ci piacerebbe rendere il festival sempre più interattivo e più ricco di attività e laboratori.